Piero, come stai? Branco. Sì, così. Senti, Sabra, che cosa fa? Sabra, Sabra, niente di speciale. Empecemos ahora. We'll be right back.